Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati su Radio 24, ben ritrovati Ivana Di Martino. Ciao, buona domenica a tutti. Allora, con un calendario delle gare fatto per ora di ottimistiche prospettive, come abbiamo lungamente raccontato la scorsa settimana, noi oggi continuiamo a correre senza obiettivi certi, quindi solo per il piacere di correre, che insomma non è poco, e lo facciamo con i consigli del coach Fabio Vedana, bentornato. Ciao a tutti. E della nutrizionista Francesca Derigo, ben ritrovata. Ciao, buongiorno a tutti. Fabio, allora partiamo da te. Noi ci siamo sentiti qui a Personal Best la domenica precedente alla riapertura dell'attività fisica all'aperto, quindi 5 settimane fa, era il 3 maggio, abbiamo parlato di ripresa graduale in base anche all'attività che siamo riusciti a fare nel periodo di lockdown. Ora, come ci eravamo appunto detti, siamo vicini, o meglio dovevamo essere vicini alla forma che avevamo lasciato prima del blocco delle attività, perché parlavamo appunto di 6-8 settimane, e ora probabilmente potremo iniziare a dare qualche stimolo diverso, Fabio. Sì, infatti ci eravamo lasciati dandoci queste 5-6 settimane di ricondizionamento, cioè di riabitudine alla corsa, ripresa a sentire la spinta e il ritorno elastico dell'impatto del piede a terra, cosa che avevamo un po' dimenticato visto se avevamo usato il tapis roulant. E quindi adesso è il momento di fare qualcosa di un po' più strutturato, cioè se la prima fase poteva essere vista come un condizionamento generale, adesso possiamo fare un condizionamento più specifico. E quindi possiamo un po' declinarlo in base a quelli che potrebbero essere i nostri obiettivi agonistici, anche se sappiamo bene che attualmente come obiettivi agonistici la situazione è ancora un po' in divenire, però possiamo comunque pensare che in autunno o nella prima fase invernale possiamo magari collocare un 5, un 10.000, una mezza maratona, una maratona, e quindi in base alla distanza possiamo costruire dei lavori più specifici in questa fase. Ricordando anche però che soprattutto per noi che siamo al nord in questo momento, anche il clima ha uno sbalzo abbastanza importante. E quindi se fossimo in una stagione normale, quindi se fossimo in un giugno normale, in questo momento saremmo in un giugno completamente agonistico e quindi faremo dei lavori molto vicini ai ritmi gara, gesteremo meglio il recupero. Ma visto che siamo in un giugno assolutamente straordinario, come è tutto straordinario questo anno, in questa fase il consiglio è: introduciamo lavori di qualità e lavori specifici in base alla gara obiettivo che abbiamo per l'autunno, ma con molta, molta accortezza, perché dobbiamo sapere che con un clima che supera i 20 gradi i tempi di recupero sono particolarmente dilatati. Quindi o abbiamo l'accortezza di lavorare molto presto la mattina o alla sera, evitiamo di fare i lavori di qualità nella fase più calda della giornata. Ieri ho portato mia figlia vicino alla montagnetta in metropolitana e ho visto che alle 5 del pomeriggio sotto il solleone c'erano persone che correvano intorno alla montagnetta. Ecco, quello è un po', c'erano 27 gradi, quindi è un farsi del male, insomma. No, è un farsi del male nel senso che è un allenamento, sì, ma è molto lungo da recuperare, e quindi siccome noi dobbiamo sempre valutare la bilancia tra quanto condizioniamo con lo stimolo allenante e quanto riusciamo a recuperare, un allenamento di quel tipo necessita di un recupero lungo. Quindi il consiglio, per tornare alla tua domanda, è: introduciamo lavori specifici, introduciamoli nelle fasi più fresche della giornata, quindi la mattina presto, la sera tardi, e in base alla gara che ci siamo posti come obiettivo nella fase autunnale. Se vogliamo fare degli esempi, possiamo il lavoro fondamentale che dobbiamo introdurre è quello delle variazioni di ritmo, delle variazioni di ritmo medie, quindi intorno ai 2 minuti. Quindi un esempio classico è fare 1 minuto forte, 1 minuto piano, 2 minuti forte, 1 minuto piano, 3 minuti forte, 1 minuto piano, che è un blocco da 9 minuti. E questo possiamo ripeterlo 1, 2, 3, 4 volte in base un po' al nostro livello. Quello è già un fartlek che ci permette di migliorare la nostra sensibilità nella corsa e anche quindi sviluppare le qualità aerobiche e anche di introdurre un certo stimolo dal punto di vista muscolare, perché comunque nella parte più forte devo aumentare le spinte, controllare la cadenza, e quindi ho tutta una parte tecnica che mi permette di avere uno stimolo adeguato. Ecco, un allenamento del genere, già posizionandolo una volta a settimana, è un bello stimolo. Fabio, quindi insomma la mancanza di gare può essere anche un'opportunità, no? Insomma, per vivere il nostro sport in modo diverso, insomma, senza suonarci di allenamenti durissimi. Sì, potremmo sviluppare di più quello che è la base aerobica, cioè dopo la prima fase che abbiamo detto che è proprio di ritorno easy, possiamo un po' lavorare un po' sotto quello che è la soglia aerobica, che è la massima potenza lipidica, cioè quello che mi permette di correre avendo una buona intensità, però senza arrivare ad avere una difficoltà nel parlare. Quello è quello che si chiama soglia aerobica, che ci permette di sviluppare molto le qualità di produzione di energia attraverso i substrati energetici lipidici, e quindi ci migliora parecchio quello che è la qualità di endurance di base, e quindi ci permette di avere quella grossa piattaforma sulla quale poi andiamo a costruire le qualità specifiche, e questa è la fase secondo me ideale per poterlo fare. Lo facciamo quindi con l'attività in massima potenza lipidica a quell'intensità lì, con il fartlek, e inserendo una volta a settimana un lavoro sulla tecnica. La tecnica vuol dire fare degli allunghi da 20, 30, 40 secondi che mi permettono di migliorare proprio la gestualità e di migliorare quello che è l'economia del mio gesto. Li posso fare in salita più o meno pendente, ma anche in discesa. Nella discesa accentuo molto la parte proprio legata al contatto a terra e quindi al recupero dell'energia elastica del piede durante il contatto con il terreno. Invece Francesca, noi siamo passati praticamente da correre, comunque fare attività al chiuso, e comunque era inverno insomma, e ci siamo buttati nella primavera anche molto calda, no? Quindi sicuramente, almeno io ho avuto anche su di me dei problemi proprio di recupero di energia, e quindi insomma anche l'alimentazione immagino che dobbiamo cambiarla, l'abbiamo dovuta cambiare. Sì, assolutamente sì, perché da un lato è cambiata la stagione, dall'altro ci siamo ritrovati a uscire di casa dopo un periodo in cui comunque eravamo comunque fermi, no? Tutti noi abbiamo, questo lo so perché me lo dicono tante persone, abbiamo accusato la stanchezza, quindi non solo chi magari non sì. corre o comunque non fa attività fisica, quindi già il riprendere anche quelle poche attività di sempre, quindi attività normali come muoversi per andare al lavoro, è stato molto stancante, probabilmente anche da un punto di vista psicologico, perché tutto questo ha diciamo comportato il doversi riadattare a una situazione che non era neanche quella di prima, era una situazione ancora diversa. Cioè siamo comunque in continua evoluzione da questo punto di vista, e quindi l'alimentazione è fondamentale per sostenerci da un punto di vista energetico, e si può fare un discorso che comunque non è molto diverso da quello che facciamo sempre ai cambi di stagione, no? Quindi quella stanchezza che ci viene al cambio di stagione, normalmente al passaggio tra l'inverno e la primavera o anche dall'autunno. Quindi abbiamo bisogno di un sostegno energetico secondo il nostro fabbisogno, quindi adattandolo ovviamente al fabbisogno, non di più, ma soprattutto sono nutrienti specifici che ci servono, quindi tutto quello che è la stagionalità degli ortaggi di colore diverso per avere un apporto diciamo completo di vitamine, minerali, sostanze antiossidanti che ci sostengono da tutti i punti di vista, e anche quello immunitario, la dieta bilanciata, quindi il corretto apporto proteico, e soprattutto l'idratazione in questo momento è fondamentale. Altra cosa, e mi ricollego a quello che ha detto Fabio prima, è che dobbiamo sempre pensare e pianificare la nostra alimentazione in base all'orario in cui ci alleniamo, perché questo non può essere uguale ogni giorno, cioè se io mi alleno la mattina presto dovrò pianificare con anticipo se devo mangiare qualcosa prima o se devo fare l'allenamento a digiuno, cosa mangerò dopo, quindi se no, il mio allenamento non sarà a digiuno e dovrò mangiare qualcosa prima, potrebbe essere per esempio degli zuccheri facilmente digeribili, due fette biscottate col miele, una barretta energetica, un gel se non tollero niente, o il bicchiere a cui aggiungo magari mezza dose di una polvere a base di sali e di zuccheri. Quindi tutto questo lo devo pianificare, così come devo pianificare il recupero o i pasti durante la giornata, se prevedo ad esempio di allenarmi in tarda serata, perché poi il rischio è quello di arrivare in tarda serata senza energia, perché allenarsi col fresco adesso vuol dire allenarsi tardi, cioè in prossimità dell'ora di cena. anzi dopo cena, cioè per me è prossimità dell'ora di cena perché io sono abituata a orari diciamo del meridione e quindi ceno tardi, però per molti potrebbe essere già ora di andare a letto, ecco, quindi si deve pianificare questo, magari anticipare la cena, quindi mangiare cosa prima e poi dopo allenarsi e fare una cena leggera, un semplice recupero subito dopo l'allenamento. Fabio, tornando a te, abbiamo parlato del fatto che non ci sono gare in programma, no? I tuoi atleti elite, insomma, le persone che segui tu, gli atleti di alto livello, come stanno vivendo questa situazione di mancanza di obiettivi e come affrontano un momento come questo? Guarda, innanzitutto sono tutti felici perché finalmente stiamo riuscendo ad allenarci outdoor e quindi abbiamo lasciato il nuoto frenato, il tapis roulant, i ciclosimulatori, quindi c'è la bellezza di poter uscire, abbiamo fatto anche dei primi allenamenti insieme in bici, sempre conseguendo le distanze e poi abbiamo fatto tutti i lavori di corsa, stiamo facendo tanti lavori di corsa, abbiamo fatto i lavori specifici, guarda, abbiamo fatto proprio un lavoro uguale a quello che ti ho proposto prima, quindi anche un atleta d'elite fa un lavoro di fartlek in questo momento, proprio perché siamo molto lontani dal momento agonistico. Poi il fatto di poter nuotare, quello secondo me è stata la cosa più importante, il fatto di tornare in vasca, abbiamo fatto molto open water perché avevamo la possibilità di nuotare in un lago, e quindi avevamo fatto parecchio open water all'inizio di maggio e adesso siamo tornati in piscina dall'inizio di giugno e questo con tutto il gruppo, perché prima potevano solamente gli atleti di alto livello, quelli che avevano lo status di atleti di livello internazionale. Quindi questa settimana il fatto di poter allenarsi tutti insieme, quindi tutto il gruppo, il nostro gruppo da una dozzina di atleti in piscina, è stato veramente piacevole dal punto di vista proprio della socialità. È facile per loro in questo momento, l'entusiasmo di fare questo e di riprendere la routine è già un bonus dal punto di vista della motivazione molto alto. Okay. Certo, tutti mi cominciano a chiedere, ma quindi quest'anno gare? Perché sai, sì, il fatto dell'atleta è che le gare, oltre a verificare il proprio stato e quindi a colmare un po' l'incertezza che è tipica dell'atleta, sono anche una fonte di guadagno economico, perché comunque i prize money sono lì. E quindi io attualmente il calendario dell'ITU, cioè della massima istituzione internazionale del triathlon, ha messo delle gare dalla seconda metà di agosto. Quindi in questo momento qui io dico ai miei ragazzi è come se fossimo a febbraio in un calendario normale e quindi torniamo ancora a Cipro magari training camp a Cipro a febbraio, quindi torniamo a Cipro e ripartiamo con i lavori che stavamo facendo lì e quindi stiamo proprio riprendendo quei temi lì. Tutti, la cosa interessante è che tutti dicono mi sento dal punto di vista della resistenza generale fortissimo. Cioè sarei in grado di stare 5 ore in bici, di correre 2 ore, mi manca un po' la parte di qualitativa e gli ho detto ragazzi, quarta qualitativa ne abbiamo fatta veramente poca, quindi ci sta e dico guardate è come se fossimo a febbraio, quindi pensate siamo a febbraio e abbiamo le gare a fine marzo, aprile e quindi ci sta che abbiamo tutto questo periodo per fare tutto quello che riguarda i lavori specialistici, quelli che abbiamo un po' anche ricordato prima per quanto riguarda i nostri ascoltatori, quindi siamo esattamente nella stessa fase. Quello che mi piace è che comunque tutti sentono che hanno un miglioramento delle qualità aerobiche di base, proprio perché veramente capita molto raramente di fare un lavoro così lungo, perché noi abbiamo fatto l'inverno dove abbiamo fatto quel lavoro lì, poi marzo, aprile, maggio, dove solitamente si fa il lavoro che proponiamo adesso, abbiamo ancora fatto il lavoro di base e quindi per la prima volta abbiamo fatto quasi 6 mesi di lavoro di base e quindi sono veramente curioso di vedere poi in prestazione, cioè in gara, quale sarà il risultato. Tanta teoria ma si vede solamente nella pratica se ha funzionato o no, quale sarà il risultato. Quindi comunque Fabio farai anche, cioè stai facendo anche il motivatore in questo periodo, perché io cioè immagino forse anche con me è difficile, no, questo periodo, perché la mancanza di obiettivi immediati, soprattutto anche per quelli i master, no, non ce l'hanno adesso obiettivi rispetto ai tuoi grandi atleti, quindi è ancora più difficile tenerli comunque su di morale. Non è facile. Hai centrato l'obiettivo, hai centrato quello che sto facendo veramente molto in questo periodo. Ieri proprio ho fatto un colloquio con un age group che aveva un sogno, fare l'Icon. Non so se sapete che cos'è l'Icon, è questo Ironman che si fa a Livigno in una condizione estremo. Un Ironman estremo, sì. E l'Ironman e l'Icon quest'anno l'hanno annullato e quindi lui è distrutto perché ha lavorato un anno per fare l'Icon e l'Icon gliel'hanno tolto e quindi tutto sta a trovare degli obiettivi, cioè lo sappiamo benissimo, noi funzioniamo in base ad obiettivi, se non abbiamo obiettivi ci lasciamo prendere dalla pantofolite o dalla sindrome del divano colloso. Il sindrome del divano colloso è che c'è questo divano che ti aspira e non ti lascia più andare, piazze praticamente incollate. Ecco, e quindi per esempio con lui ho detto, ma perché non proviamo a fare un ultra cycling? L'ultra cycling è una disciplina individuale che rispetta perfettamente tutte le norme del distanziamento sociale, sono già programmate delle gare a luglio e quindi perché non facciamo un ultra cycling? Un ultra cycling vuol dire una gara di ciclismo oltre 300 km e lui lì si è acceso, cioè gli ho aperto un mondo, era tutto, abbiamo finito il colloquio in Skype che era gli ha risolto il problema, la persona più felice del mondo, quindi perché gli hai dato un altro obiettivo, e certo il bravo coach fa questo, riesce a leggere dentro la persona quali sono le sue esigenze, quali sono, interpreta quello che sono i sogni delle persone, sai benissimo, sapete benissimo che mi piace la definizione di realizzatore dei sogni sportivi, ma in fondo nella pratica è quello che faccio, quindi riuscire a intercettare i sogni, intercettare i bisogni e porre degli obiettivi che siano realizzabili ma che siano anche sfidanti, perché questo è quello che ci fa, sono i motori che ci generano energia all'interno della nostra mente e sappiamo che la mente è il muscolo più importante per quanto riguarda gli sport di enduro. Fabio, nel frattempo abbiamo parlato appunto che non ci sono gare, ma ci fioccano le gare virtuali, no? Quelle gare che ognuno corre per conto proprio e poi tramite un'applicazione sullo smartphone o sull'orologio concorre a creare una classifica. Eventi che stanno insomma avendo un discreto successo, come abbiamo visto, i 10.000 del 2 giugno a cui hanno partecipato runner della domenica, diciamo così, e anche atleti professionisti, anche con tempi degni di nota. Sarà virtuale anche la maratona più antica del mondo, che è la Boston Marathon, annullata giorni scorsi, si correrà appunto in versione virtuale, e sarà virtuale anche la seconda gara più antica d'Italia, la Notturna di San Giovanni, che il 20 giugno sarà l'81esima edizione, una 10 km che in modalità tradizionale si snoda per le strade di Firenze. La gara più antica d'Italia invece è anche d'Europa, ricordiamo il Giro di Castelbuono in provincia di Palermo con oggi 94 edizioni. Questo per arrivare al dunque, nel triathlon, Fabio, ci sono dei tentativi invece di gare virtuali? Sì, Ironman, il circuito Ironman ha fatto delle gare virtuali su distanza di 70.3, quindi di Alpha Ironman, ne ha fatte parecchie, sono state anche abbastanza frequentate. Ci sono stati degli atleti di alto livello, cito Frodeno che è il campione del mondo di Ironman, che ha fatto un Ironman indoor facendo una prestazione eccezionale, e c'è un ragazzo spagnolo, un Ironman di secondo piano perché non è famosissimo, che lo ha battuto, cioè gli ha fatto un tempo inferiore al suo e anche questo è simpatico, facendo un evento media con i new media. E poi la Super League è questo circuito professionistico che fa questo format di gare molto rapide, molto veloce, viene paragonata un po' alla Formula 1 del triathlon, che ha fatto delle gare virtuali in Zwift, e quindi c'è un movimento. Tutti i CEO di queste grosse multinazionali, perché alla fine sono delle industrie, sia Super League che Ironman, hanno rinnovato il fatto che questi sono degli eventi per tenere alta la motivazione e per muovere l'acqua, perché altrimenti passava un tempo troppo lungo, ci si perde e un po', insomma, faceva affievolire quelle che sono le motivazioni intrinseche degli atleti e dava troppo spazio alla sindrome del divano colloso, che altrimenti avrebbe preso il sopravvento su tutti. Francesca, abbiamo qualche domanda dagli ascoltatori. Chiara De Milano ci scrive: spinta dalla pubblicità ho comprato degli integratori di potassio e magnesio, ma sai che non hanno avuto nessun beneficio, come mai? Beh, non potrebbero, non c'è un beneficio, diciamo, nell'assumere, esatto, non è una medicina per il mal di testa l'integratore a base di potassio e magnesio. e soprattutto nessun integratore di questo tipo fa il miracolo, cioè se mi sento stanco per un determinato periodo di tempo e magari prendo una bustina di integratore a base di sali minerali, non sarà certo quella che mi fa passare la stanchezza, è tutto un insieme di cose, quindi magari rallentare il ritmo delle mie giornate, mangiare bene, magari prendo l'integratore a base di potassio e magnesio ma non bevo abbastanza o non mangio, quindi non ho un'alimentazione bilanciata, mi manca qualche nutriente. In generale prima di cercare la soluzione bisognerebbe vedere qual è la causa e soprattutto magari andare anche, non so, a indagare se c'è una carenza di ferro, un'anemia che è molto molto comune soprattutto nelle donne e soprattutto nei runner, quindi la carenza di ferro che provoca comunque stanchezza. Frequenti mal di testa. Sì, è abbastanza tipico, abbastanza comune cercare la soluzione nell'integratore a base di potassio e magnesio. In realtà poi non sappiamo che, per esempio, quando sudiamo, il minerale che perdiamo di più in assoluto è il sodio. Che non viene mai menzionato. Non perdiamo potassio e magnesio, esatto. Magari ci basterebbe, non so, aggiungere un pochettino più di sale agli alimenti quando fa tanto caldo. Invece o spesso mangiare le patatine. Ecco. Come fai tu, esatto. E invece Ettore di Livorno ci scrive: ho una domanda per la vostra nutrizionista, sono un maratoneta della domenica come dite voi e vorrei comprare una centrifuga per la frutta, no? Mi ricordo che ne parlavate tempo fa ma mi è venuto un dubbio, per me è che faccio sport, è meglio la centrifuga o l'estrattore? Allora diciamo che l'estrattore rispetto alla centrifuga mantiene inalterato il potere antiossidante di diciamo delle molecole che sono contenute nella frutta o nella verdura che utilizzo per prepararla, proprio perché è uno strumento che riesce a mantenere una bassa temperatura, no? Quindi siccome con l'aumentare della temperatura queste sostanze si rovinano, rispetto alla centrifuga l'estrattore è meglio. E siccome per uno sportivo, anche se della domenica, comunque c'è un aumento dello stress ossidativo, potrebbe essere utile assumere un estratto. Quindi diciamo un mix di queste sostanze private della fibra, perché nella frutta intera c'è la fibra che limita comunque la capacità di assorbimento di queste molecole, invece se la vado ad assumere tramite anche una spremuta di agrumi, che è una cosa molto semplice ma anche quello va bene, o un estratto, in realtà le assimilo meglio. E questo vale soprattutto alla fine dell'allenamento, quando ne ho più necessità, perché comunque c'è anche un aumento dell'infiammazione, quindi aumentano tutte quelle molecole legate all'infiammazione e ho bisogno di, diciamo, di proteggermi da questa situazione di stress. E Fabio invece, Simonetta ci scrive, potete parlare un po' di nuoto? Perché detto così diventa un po' ampia la risposta, ma concentriamoci magari su cosa possiamo fare per aggiungere qualcosa alla nostra nuotata, no? Magari variando un po' i nostri allenamenti. Beh, allora guarda, nell'ottica dell'aumento delle occasioni di allenamento, io utilizzo parecchio il nuoto anche negli specialisti solamente della corsa, proprio perché ha un effetto di migliorare i tempi di recupero soprattutto dai lavori muscolari intensi degli arti inferiori. E quindi fare un lavoro in acqua, magari con l'acqua che ha anche una temperatura piuttosto fredda, quindi adesso per esempio le piscine all'aperto, la temperatura è 25-26 gradi, dopo aver fatto magari dei lavori di qualità, ci permette di migliorare i tempi di recupero. E poi il movimento che fanno gli arti inferiori nell'acqua ci permette quindi di favorire proprio tutto quel microcircolo periferico che diminuisce i tempi di recupero. Poi invece l'utilizzo del nuoto invece come strumento d'allenamento, sempre per chi fa endurance specifica della corsa, serve per migliorare ed aumentare il volume d'allenamento a basso impatto. Siccome la corsa ha il problema principale che ha un grosso impatto sugli arti inferiori e sulle articolazioni, il fatto di mettere anche degli allenamenti di sostegno nel nuoto ci permette di ampliare il volume di allenamento, un po' come la bici. Il problema del nuoto è che è una disciplina altamente tecnica, per cui se io non so nuotare, in acqua ho una dispersione di energia incredibile, che potrebbe essere un beneficio perché così aumento sempre il volume di lavoro aerobico, ma potrebbe essere anche un po' demotivante perché dice, oh, cavolo, ho fatto un'ora e ho fatto 1000 metri, e quindi potrebbe essere anche un po' demotivante, però io lo consiglio soprattutto in questa fase perché ha, al contrario della corsa che ha un effetto surriscaldante con le temperature di giugno e luglio che ci aspettano, il nuoto ci permette di avere una temperatura più idonea e più refrigerante. Per chi ha un po' la monotonia della vasca, da 5 da 50 metri, consiglio il nuoto in acque libere. Ci sono delle strutture attualmente anche vicino a Milano che permettono di fare il nuoto in acque libere, sono dei laghi privati che fanno il nuoto in acque libere. Citiamo il lago Boscaccio che è alla periferia di Milano, nella zona tra Trezzano e Gaggiano, che proprio offre la possibilità su un circuito di quasi 2 chilometri, quindi ovviare alla monotonia di fare sempre avanti e indietro con la riga nera, che è la manna per il nuotatore, ma invece per chi non è nuotatore è la tomba della motivazione, perché è estremamente monotono, soprattutto per chi corre ed è abituato ad avere il cambio di paesaggio. L'acqua libera, cioè il nuoto in acqua libera, ci permette di avere un paesaggio naturale, di trovarci in un ambiente che ci rilassa di più e ci permette di fare un'attività più piacevole dal punto di vista proprio del piacere di fare un sport in spazi aperti. Poi anche, insomma, serve molto a chi fa triathlon, no? Perché poi in gara non si troverà una piscina bella limpida con nessuno intorno, insomma. Certo, non mi hai fatto la domanda sul triathlon. Se introduciamo sul triathlon è un altro capitolo che allora che dipende più tempo. Non abbiamo più tempo. Il nuoto come sostegno della corsa. Se vi parliamo del triathlon facciamo un'altra puntata sul nuoto in acque libere nel triathlon, è un'altra puntata. La faremo presto allora. In chiusura. Altre cose che sono molto importanti, perché il problema dell'acqua libera nel nuoto del triathlon è l'orientamento, che è un problema. Io spesso vedo chi non l'ha mai fatto, che quindi ha nuotato solo in piscina, poi va in acque libere e vede dal device, vede il percorso e vede che va a zigzag, proprio perché non è abituato a fare il punto rotta, che è invece uno degli... Ne parleremo del punto rotta. Dai. Lasciamo in sospeso questa cosa. Non posso tutte le carte così, poi prendi un altro consulente. Come... Infatti, no. Noi vogliamo solo te. In chiusura, Francesca, Simone di Ancora ci scrive: potete dire che per dimagrire non serve vestirsi come un palombaro? Questo è il classico di questa stagione, no? Il kiwi, di tutto, la felpa sotto il kiwi e in più anche la mascherina, così collassano completamente. Esatto, adesso c'è anche la mascherina. Sì, beh, l'abbiamo già detto tante volte, no? Che in realtà può essere anche pericoloso per la salute, perché non faccio traspirare il sudore, insomma, che in realtà è qualcosa che mi serve per mantenere costante la mia temperatura. Quindi ho sempre quei sistemi di regolazione sia in estate sia in inverno. In estate comunque può essere molto pericoloso coprirsi e si rischia veramente il collasso. Quindi a parte evitiamolo, non fa assolutamente dimagrire, si perdono liquidi, ma sia che mi vesto tanto sia che mi vesto poco, se vado a pesarmi dopo aver corso e quindi dopo aver sudato, peserò per forza di meno. Hai perso solo acqua. Esatto, hai perso acqua. Tutti probabilmente si aspettano l'effetto del guanciale sulla padella quando si fa la carbonara, insomma non è quello, insomma, che succede. Oggi con le metafore ci abbiamo dato dentro alla grande, però. Visto. Grazie Fabio, allora siamo in chiusura, chiudiamo qui, grazie. Ciao a tutti, grazie a voi e speriamo di vederci presto dal vivo e non in Skype, perché mi mancate, mi manca il calore, mi manca... la vostra presenza. E grazie Francesca. Grazie a voi e buona giornata a tutti. E noi anche per oggi ci fermiamo qui, ci risentiamo domenica prossima sempre alle 6.30, alle 16.15 e poi quando volete ci trovate in podcast. Buona domenica. Buona domenica a tutti. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.